Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1866, il plebiscito sancisce l'unione del Veneto all'Italia. A Venezia. Sì, è vero, è vero. Non temer d'inganni. Apri alla gioia il cor, martire santa. La verga che t'offese, ai 50 anni, già cade infranta. Esulta al fine. Questa gran vittoria, che Italia ancora non comprende intera, tu la cogliesti, e la civil tua gloria su ogni altra impera. Il Veneto è italiano. I versi che la poetessa di Rovigo, Erminia Foà Fusinato, ha dedicato a Venezia dopo l'annuncio della sua unione al resto della penisola fotografano l'entusiasmo di tanti patrioti veneti alla notizia dell'esito della consultazione popolare. Il plebiscito si è tenuto il 21 e 22 ottobre di questo 1866. Su una popolazione di 2.603.009 abitanti, i votanti sono stati 647.426. I voti contrari 69, nulli 273. Adesione totale dunque? È difficile crederlo. È piuttosto evidente che il plebiscito è stato chiamato a sancire un esito scontato. L'annessione delle Venezie, compreso il Friuli ma escluso il Trentino e Trieste, al Regno d'Italia. Come in altri casi, il plebiscito è stato di fatto diretto dall'alto. È vero che il trattato tra Italia e Austria prevedeva lo svolgimento del referendum ed è pure vero che nell'agosto Vienna ancora sperava nella nascita di uno Stato veneto autonomo sul modello del Lussemburgo. Ma ora la realtà delle cose ha superato questa eventualità. E va ricordato che la guerra sarebbe continuata se non ci fossero state le rassicurazioni di Parigi sulla consegna dell'area al Re d'Italia. Le tensioni nel nostro paese spiegano le parole seccate di Ricasoli sulla questione del plebiscito. Quando si tratta del plebiscito, si tratta di casa nostra. Non è già che si faccia il plebiscito per obbedienza o per ottemperare al desiderio di qualche autorità straniera. La pazienza ha il suo limite, per bacco. In democrazia, però, va detto, la forma è spesso sostanza. E confligge con la legalità il fatto che i francesi abbiano consegnato il Veneto ai plenipotenziari italiani addirittura 2 giorni prima dello svolgimento del voto. Negano i principi di libertà, il colore diverso delle schede, le urne separate per il sì e per il no, come pure le minacce di punizioni per i parroci nelle cui parrocchie il voto fosse stato insufficiente o negativo. L'Italia sognata da tanti veneti e veneziani ha cominciato male. Nonostante la riapertura del Teatro La Fenice e la festa che ha accolto il 7 novembre Vittorio Emanuele II a Venezia. 3 giorni prima il Regio Decreto numero 3300 aveva sancito l'ingresso delle province venete di quella di Mantova nel Regno d'Italia. Ma d'altronde l'Italia, dopo un'annessione umiliante maturata dopo 2 sconfitte sul campo, a Custozza e a Lissa, appare oggi in profonda crisi di identità. Una crisi di identità ben rappresentata dalle parole scritte da Mazzini su Il Dovere del 24 agosto di quest'anno. È possibile che l'Italia accetti di essere additata in Europa come la sola nazione che non sappia combattere? La sola che non possa ricevere il suo, se non per beneficio d'armi straniere e concessioni umilianti dell'usurpatore nemico? Paolo Piacenza, Il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.